Anche da parte mia un caloroso benvenuto a gentile e numeroso pubblico e che cercheremo di non deludere, ma sicuramente l'occasione di questa sera è veramente straordinaria perché abbiamo la possibilità di mettere in luce un capitolo molto importante della storia della nostra provincia, della nostra comunità, e lo faremo grazie alla pubblicazione che viene presentata e che è il frutto del lavoro di uno storico di grande qualità che è Carlo von Guggenberg, che oltre che storico come professione, quindi accademico in questo settore, è anche una persona che ha nella sua famiglia un giacimento di informazioni, di testimonianze, di ricordi tale da rendere la storia non solo prodotto dai libri ma prodotto anche dai rapporti umani e dalla biografia stessa della famiglia von Guggenberg. Io devo anche dire che ringrazio la casa editrice Praxis, qui c'è Pinuccia di Cesaro, che da molti anni produce pubblicazioni non sempre di tipo commerciale proprio di prima mano, ma pubblicazioni tali da diffondere la conoscenza della storia, e lo fa cercando di far conoscere a un gruppo etnico la storia dell'altro gruppo etnico, perché questo è uno dei grandi problemi della nostra comunità, cioè che non abbiamo una storia condivisa e purtroppo spesso non abbiamo nemmeno la conoscenza condivisa della storia. Quindi grazie a Pinuccia e alla casa editrice Praxis e anche a Carlo von Guggenberg che ha fatto questa produzione, lo dico senza che nessuno la fraintenda, ma l'ha fatta in lingua italiana in modo tale da poter essere diffusa e divulgata tra persone che magari non hanno la conoscenza del tedesco sufficiente per leggere libri in tedesco, ma questa è una storia importante di questa grande ferita che ha avuto la nostra provincia con le opzioni, ma anche della ferita rimarginata dopo la guerra, ma l'ha prodotto in lingua italiana, e questo è un fatto che ci aiuta ad andare avanti nella convivenza. Quindi io non la faccio lunga, penso che una delle domande che ognuno di noi ha, la prima domanda che ognuno di noi ha in testa è: ma chi è Carlo von Guggenberg? Quindi ho la parola a te. A volte me lo chiedo anch'io. Buonasera a tutti e grazie. Mi unisco anche al ringraziamento a Pinuccia, a Praxis, che ha avuto il fegato di pubblicare questo libro. Allora, la mia storia personale, dal punto di vista tu mi hai dato dell'accademico e ti ringrazio, ma è una storia professionale. Ho lavorato in banca in Italia all'estero fino a 4 anni fa. Poi a un certo punto le vite hanno delle svolte, e visto che già mi sarebbe piaciuto iscrivermi a storia da giovane, però sono altre facoltà che garantiscono una vita più facile, e mi sono laureato in storia l'anno scorso praticamente. Non si sente? Non si sente? Tengo già. Vediamo un po', si sente meglio? Scusatemi. E il primo lavoro di cui mi sono occupato è questo, perché ho una storia familiare alle spalle. Mio nonno paterno e mio nonno materno hanno avuto un ruolo entrambi abbastanza importanti in quel periodo, magari ne parliamo dopo, e quindi ero sia agevolato dal punto di vista del poter attingere a qualche fonte, e sia magari avevo qualcosa di un pochino più particolare da dire, non fare il solito libro compilativo che riassume contributi altrui. E soprattutto, se mi permettete, secondo me un aspetto che mi ha portato alla presunzione di stampare un libro, perché uno dice perché mai dovrebbero leggerti, occupati di quello che ti interessa e poi basta, è la mia posizione personale a cavallo dei due gruppi culturali che ci sono in Alto Adige, perché io vengo da due famiglie, diciamo così, puro sangue altoatesine, ma sono già nato a Milano, i miei genitori si erano spostati, e quindi sono cresciuto tra Milano, un po' di estero e adesso abito a Torino. E quindi ho una visione, qualcuno potrebbe dire che non sono né carne né pesce, perché ho scritto in italiano anche perché parlo l'italiano meglio del tedesco, ho studiato già le elementari in italiano, e ho questa forma di straniamento etnico, perché ovviamente ho la fortuna di avere ancora degli agganci qui e vengo ogni estate da quando ero piccolissimo, superata Salorno, per tutti sono sempre stato il Crucco, il cognome, forse la R, non lo so, un certo aspetto severo, e quindi la perfetta adesione al modello italiano non funzionava per via, diciamo, del cognome. Appena passata Salorno, uno che parla meglio italiano che tedesco, pur chiamandosi come mi chiamo io, uno che in Italia e Germania 4-3 teneva l'Italia, che adesso magari è abbastanza normale, ma ai tempi la comunità tedesca non capiva fino in fondo, anzi secondo me forse è tardi, ma sì, uno studio antropologico sul tifo calcistico si potrebbe fare, perché chi tiene all'Italia, chi tiene alla Germania, pochissimi tengono all'Austria, da queste parti è un fenomeno interessante che andrebbe approfondito. E quindi diciamo che, superata Salorno, ero favalst, ero italianizzato, ero per gli estremisti uno dell'altra barriera, ma comunque non tutti, poi ovviamente parenti, amici mi volevano bene comunque, ma un minimo di, opa, ma come parla tedesco questo qui, ma che diavolo succede? Quindi uno potrebbe pensare che non sono né carne né pesce, io forse ho la presunzione di dire che sono sia carne sia pesce, nel senso che mi sento 100% italiano e mi sento 100% aderente alla comunità germanica qui. E questo è uno sguardo che nei libri, secondo me, approfondendo la bibliografia, non sempre si trova. Quasi tutta la storiografia, poi ci sono storici anche nel gruppo italiano, meno frequenti ma di alto livello, però quasi sempre si capisce da che parte sta, dove vuole arrivare l'autore che targa, diciamo. Ecco, io non ce l'ho una targa, e quindi forse una visione un pochino più oggettiva, o almeno uno sguardo da fuori di uno che ha un piede dentro, ho avuto la presunzione di pensare che potesse essere utile. Ecco, grazie. A quel punto mi viene da pensare anche il Carlo Colacci, evidentemente qui nel Sud Tirolo forse sollevava qualche domanda. No, questo è un accidente tecnico. Io sono nato a Milano e ai tempi all'anagrafe era vietato dare nomi stranieri. E quindi mio fratello, che è del 59, è ancora nato a Bolzano, si chiamava Alexander. E io mi chiamo Carlo, perché sono nato a Milano, è una questione più tecnico-anagrafica. Per dire quanta strada dobbiamo fare ancora per riconoscere la varietà culturale di un paese. Ecco, Carlo, io penso che una delle questioni fondamentali per capire la storia, per capire anche le cose che ci dirai dopo, è la questione delle opzioni. Cosa sono state le opzioni? Tenendo conto che le opzioni sono state un dramma, una ferita, fino a un certo punto ricucita, ma non del tutto ancora nel mondo tedesco e ladino, che era stato chiamato alla scelta, alla famosa opzione per la Germania o per rimanere qui, quindi da Bleiber, ma questa esperienza non ha toccato il mondo italiano, la popolazione italiana ovviamente non era chiamata a votare, diciamo, quel famoso 31 dicembre 1939 con tutto quello che ha comportato. Quindi vuoi dirci anche, sì, dedicando un po' di tempo, cosa sono state queste opzioni? Sì, vediamo di dire un po' di fatti prima di commentare o di entrare nelle storie personali. Allora, chiedo scusa se per molti di voi dirò alcune cose ovvie, ma nel 1919 la provincia di Bolzano, sul Tirolo, Alto Adige, chiamiamolo come vogliamo, passa dall'impero caduto austro-ungarico all'Italia. Per i primi anni la politica dello Stato liberale era stata abbastanza tollerante, forse addirittura più tollerante di quanto non fosse stato l'impero austro-ungarico verso i trentini, perché ovviamente il Trentino è stato parte dell'impero austro-ungarico per secoli anch'esso. Dopodiché c'è l'avvento del fascismo. Al di là di alcune notazioni interessanti, cioè la marcia su Bolzano è stata la prova generale della marcia su Roma. Un mese prima della marcia su Roma, squadracce fasciste sono entrate a Bolzano, hanno preso possesso, hanno destituito il famoso sindaco Peratona, e quindi è stato anche un po' una palestra, un punto di esercizio dell'efferato nazionalismo fascista, agire sulla minoranza altoatesina. E poi la politica fascista in Alto Adige è stata molto pesante, diciamo meno sanguinosa e meno violenta di quella che hanno avuto su altre minoranze etniche in Italia, per esempio in Dalmazia con gli sloveni, con i croati, però comunque sanguinosa e molto repressiva, e sappiamo tutti che le linee guida erano due: italianizzare i tedeschi che già ci sono, quindi non permettere scuole in lingua tedesca, non permettere l'utilizzo ufficiale a un certo punto anche nella vita privata della lingua tedesca. La mamma mi raccontava che per strada la rimpoveravano, la rimandavano a casa se metteva i calzettoni bianchi. Ci sono una serie di episodi che dimostrano l'efferatezza, la politica molto pesante del fascismo verso i tedeschi che già c'erano, che poi vedremo ha avuto un effetto del tutto controproducente, perché ha compattato molto di più la minoranza che c'era, invece di disperderla e annacquarla, una specie di eterogenesi dei fili, l'ha compattata molto di più. È solo nel 39 che poi vengono fuori delle crepe gravi. La seconda parte della politica fascista, oltre a italianizzare i tedeschi che c'erano, era di importare italiani, quindi annacquare anche la percentuale di tedeschi sul territorio, ed è per questo che è stata fatta nei secondi anni 30 la politica di industrializzazione forzata, di cui ancora adesso, soprattutto Bolzano, non dico quasi esclusivamente, ma soprattutto Bolzano, ha avuto un boom sia demografico che poi anche urbanistico, e ancora adesso vediamo che Bolzano, a parte il quartiere industriale, è ancora visibilmente divisa in due. E comunque c'è questa politica in cui violenza ce n'era, ma meno che altrove, ma la comunità germanica si compatta, per autodifesa si compatta ancora di più. E per esempio ci fu la famosa risposta al divieto delle scuole tedesche, organizzata dal canonico Gamper, che poi vedremo la figura di spicco, di organizzare le Katakombenschulen, cosiddette, cioè le scuole di nascosto per insegnare il tedesco ai bambini, che se no a scuola non lo imparavano, e anzi avevano anche vincoli a parlarlo in pubblico addirittura. La mia mamma un po' di Katakombenschulen se l'è fatta. Arriviamo al periodo nazista. Cosa succede? Prima di tutto, l'idea di Hitler sul Südtirol era chiarissima. Fin dal Mein Kampf scrive, e poi lo ripete più volte, meno quando è al governo, ma negli anni 20 spesso: a me la minoranza germanica altoatesina interessa poco, a me, io vedo solo due potenziali alleati in Europa per il nazismo, che è Mussolini, e poi lui pensava agli inglesi, ma gli è andata male fin dall'inizio, quindi dopo un po' li ha mollati. E per non entrare in attrito con Mussolini, lui l'idea di annettersi o di fare qualche operazione sull'Alto Adige non l'ha mai sfiorato. Ha dovuto fare finta a lungo negli anni 30, sia per cercare di vincerli, di portare a sé la minoranza germanica, sia perché i pangermanisti in Germania protestavano, siccome andiamo nei Sudeti, andiamo in Polonia, andiamo da tutte le parti che sapete, a tutelare i tedeschi, e quei 220-230 mila che erano non li aiutiamo. E quindi lui questa cosa la fa, ma la dice molto meno negli anni 30. Durante il nazismo si crea questo paradosso in Alto Adige della militanza nazista in ottica antifascista. Non mi risulta ci sia nessun'altra zona geografica in cui è successa una roba del genere, cioè chi era molto attaccato alla sua identità germanica qui si diceva o si affiliava al nazismo, anche se in realtà poi, andando a vederlo, vedremo poi sugli optanti, cioè quelli che decidono di andare nel Reich, politicamente non c'erano forti connotati nazisti, molta della popolazione qui, c'era un sacco di gente convinta ovviamente, ma era più un'adesione pangermanica che non un'adesione politica al nazismo vero e proprio. E quindi incomincia a esserci un po' di tensione, perché ci sono un sacco di altoatesini che diventano nazisti in ottica antifascista e sperano e pensano che un giorno o l'altro Hitler farà qualcosa per aiutarli, per riportare a sé il confine, di riportare a sé l'Alto Adige, rimuovere il confine dal Brennero a Salorno. E questo disturba un po' e dà un problema alle due dittature, fascista e nazista, fino a quando non pensano a una soluzione, capiscono soprattutto con l'avvicinarsi del periodo bello, le opzioni bellico, le opzioni hanno anche questa cosa che sono lanciate prima dello scoppio della guerra e finiscono dopo lo scoppio della guerra, proprio a cavallo del primo settembre 39. Si mettono d'accordo, l'idea già girava, lo stesso Tolomei, che è uno dei personaggi importanti del fascismo in realtà, di quello che si è inventato i toponimi italiani dove non c'erano, tutti i nomi italiani un po' strampalati che vediamo girando per questa provincia, se li ha inventati Tolomei, Ecco, uno degli aspetti del fascismo in Alto Adige è che ha italianizzato tutti i nomi di località, e ci ha provato anche coi cognomi. Poi non ha affondato il colpo, diciamo, ma io avrei potuto chiamarmi o Moncucco, la cosa di Gutenberg sarebbe diventata o Moncucco o De Montecuculi, una delle due. De Montecuculi avevano offerto mio nonno per convincerlo, perché faceva un po' più chic, perché di Moncucco non voleva sentire parlare. E visto che era su adesione personale, allora da Moncucco gli hanno proposto anche Montecuculi, ma comunque era questa l'aria che tirava. Dicevo, l'idea di spostare tutti i tedeschi oltre il Brennero già girava, ce l'aveva avuto Tolomei, non era una novità. Se alla fine abbiamo tempo ancora di parlare di come hanno trovato una soluzione a problemi simili altri stati nel Novecento, vedremo che spostare la gente era all'ordine del giorno. Tra i turchi, tra Grecia e Bulgaria, hanno spostato milioni di persone avanti e indietro. Però la prima proposta la fanno i nazisti. E a un certo punto si arriva a un accordo in cui nel giugno, formalizzato ottobre, ci si mette d'accordo e si obbligano gli abitanti di lingua tedesca e ladina, e poi vedremo sugli italiani un paio di aneddoti, a optare. Se vuoi restare germanico, tedesco, te ne vai oltre il Brennero, ti sposti. Noi qui ti liquidiamo bene le tue proprietà. C'erano alcune clausole economiche che rendevano favorevole lo spostarsi. Favorevole soprattutto chi aveva terra, quindi c'è stato un paradosso che chi possedeva terra ha molto optato e si è spostato poi pochissimo, mentre i cittadini, i professionisti, molti docenti, i professori eccetera, che non avevano granché da valorizzare, hanno optato un po' meno, ma se ne sono poi andati. Quindi tra giugno e ottobre c'è questo accordo, prima il preliminare, poi l'accordo tecnico di dettaglio. Entro il 31-12-39 i tedeschi dovevano dire se si spostavano nel Reich oppure se decidevano di rimanere. Ovviamente se rimanevano rinunciavano a qualsiasi velleità di qualsiasi tipo, non solo sui toponimi e sulla lingua, ma qualsiasi germanità di qualsiasi natura. Non so che fine avrebbero fatto i Knödel, ma magari se la sarebbero pigliata anche con i Knödel. E questo apre, allora, l'aneddoto è che il censimento su base etnica era poco formalizzato e difficile, per esempio era basato sui cognomi, e noi sappiamo qui, soprattutto nella bassa Tesina, quanti cognomi italiani ha gente tedesca. E quindi l'identificazione etnica prima del controverso censimento etnico fatto per la proporzionale qui in Alto Adige non era facilissima. Quindi chi poteva optare o chi no, alla fine era rimasto un po' aperto. E ci sono avuti alcune decine di casi di italiani che non sapevano il tedesco, che però o per simpatia nazista o perché pensavano di poter stare meglio altrove, alcune decine di italiani hanno optato per il Reich. Questo crea una frattura terribile nel mondo della comunità germanica, perché dal punto di vista psicologico andarsene da una terra dove voi ci abitate, io purtroppo non, sapete quanto è piacevole starci qui, e quindi già l'idea di andarsene sorrideva poco. I contenuti della propaganda sono stati molto interessanti, perché la propaganda germanica, anche di nazisti infiltrati, c'erano 10.000 tedeschi veri, anagraficamente tedeschi, che erano venuti in Alto Adige, alcuni erano ebrei austriaci in fuga, ma quasi tutti erano nazisti venuti per fare propaganda, e hanno fatto propaganda a man bassa, erano molto ascoltati, nelle valli penetravano eccetera. I fascisti, che vedevano con piacere che se ne andasse qualcuno, ma non vedevano con piacere che sparisse l'intera popolazione, perché poi si sarebbero trovati non solo una regione spopolata, ma anche una evidente dichiarazione di fallimento delle dichiarazioni di italianizzazione che aveva fatto Mussolini prima nel 23 e poi nel 27 in modo pesante. La propaganda dei fascisti non penetrava, funzionava a Bolzano, ma nelle valli non riuscivano a farsi sentire, e quando parlavano non gli credeva nessuno. E una buona radice di quello che tutti noi abbiamo un po' vissuto di ostilità anti-italiana negli anni 50 non è tanto anti-italiana, ma è anti-memoria del fascismo, perché i fascisti nelle valli proprio non riuscivano a farsi capire. E le propagande erano di qualsiasi tipo: si diceva che chi se avessero optato tutti, Hitler si sarebbe annesso l'Alto Adige, nessuno si sarebbe mosso, che quelli che restavano sarebbero stati spostati in Abissinia, che le donne che restavano sarebbero state ingravidate forzosamente da degli italiani per annacquare il sangue germanico. E a tutte queste cose qui la popolazione ha creduto, e ha creduto anche che si sarebbe creato un Alto Adige altrove. Si era parlato di una zona in Polonia che non piaceva molto, si era parlato della Crimea, tra l'altro, ma anche in Crimea si pensava di fare della Crimea il nuovo Südtirol. In Borgogna si erano già dati dei nomi, se non sbaglio Digione si sarebbe chiamata Bolzano, forse non Digione, ma comunque. E quindi tutti avevano anche creduto, ci spostano tutti, ci mettono in un bel posto tutti insieme, cambia poco. Poi per mille motivi scoppia la guerra, e quindi, voglio dire, chi optava per il Reich finiva in guerra, chi restava qui no, perché l'Italia non era ancora in guerra al 31-12. I rimbalzi che c'erano da chi si era davvero mosso erano miserrimi. La gente, allora scusate un dettaglio che ho dimenticato, optava il capofamiglia per tutta la famiglia, quindi se optava il padre lo seguivano tutti i figli minorenni e le mogli, e quindi tutti convinti che sarebbero rimasti uniti, e invece no, cominciavano a chiamare solo i maschi perché dovevano andare o in guerra o a lavorare. E quindi quando la gente capisce che chi andava era in condizioni miserrime, dormiva nei pagliai, sparsi in giro, molti in North Tyrol, ma comunque sparsi in giro, senza un lavoro, senza una tutela, la gente comincia a frenare. Molti revocano le opzioni, soprattutto i contadini che avevano optato in massa frenano, non si spostano più, rifiutano l'ostacolo, non adempiono a tutte le operazioni burocratiche, perché bisognava valutare tutti i loro beni, c'erano delle commissioni apposite per valutare, e vai a valutare quanto vale un maso in tempo di guerra. E quindi loro si erano accomodati su queste difficoltà burocratiche, e la gente poi non si spostava più. Alla fine di circa i risultati delle opzioni per arrivare al nocciolo sono, non ne abbiamo di certissimi perché un po' di carte si sono perse, si è optato in due onde, però circa l'86-87% dei germanofoni optò per spostarsi, che faceva 200.000 optanti più o meno. Il fascismo non se l'aspettava per niente, fu una mazzata terribile, anche perché economicamente tutti i beni avrebbero dovuto essere acquisiti dall'ente delle Tre Venezie, sarebbe stato una debacle, se fosse andata in porto sarebbe stata una debacle finanziaria per lo Stato italiano terrificante. E poi quelli che si sono spostati davvero, anche qui non sono dati anagrafici certi, ma sono circa 70.000, poco più, poco meno, a seconda delle fonti, di cui poi o già durante la guerra o nell'immediato dopoguerra ne rientrarono più di 20.000, quindi alla fine restarono fuori meno di 50.000 sui Tirolo. Però l'impatto è stato forte, soprattutto perché all'interno, e qui è la parte importante per capire la nascita delle SVP, all'interno della comunità germanica si creò, dopo che erano rimasti compattissimi per tutto il periodo fascista, un odio terrificante. Gli optanti erano di meno, erano bollati come traditori, i Dableiber, Dableiber sono quelli che restano, i non optanti, quelli che avevano deciso di restare nella loro Heimat e opponevano a quello che in tedesco è il Vaterland, quindi la terra dei padri, la Pan-Germania, la piccola Heimat, cioè il focolare, era proprio un'antiretorica del Vaterland. Erano trattati malissimo, ci sono una serie di aneddoti che cerco di enumerare nel libro, di ostracismo forte da quando si incominciava a parlarne, quindi tipicamente dopo l'estate del 39, durante l'estate del 39, fino alla fine del 39, e ancora dopo. Gli optanti sono stati, i Dableiber sono stati vessati fortemente dagli optanti, cioè scene di facevano il vuoto in chiesa, appena si sedeva in chiesa sparivano tutti. Non offrivano più gli aiuti tramasi. Voi sapete che uno dei motivi per cui c'è sempre stato poco bracciantato in Alto Adige è perché ci si aiuta da un maso all'altro. Se devi vendemmia, tu vieni a fare la vendemmia da me, io vengo a fare la vendemmia da te, eccetera, eccetera. Questo servizio non veniva più dato ai Dableiber. Si uccideva il cane, si abbattevano le greggi, se ne sono visti di tutti i colori, anche perché era il momento della propaganda più forte nazista, e quindi i metodi politici ai tempi erano quelli. Quel caso dei funerali è interessante che hai citato. Sì, ci sono casi di funerali per cui nessuno portava il feretro, e quindi se tu eri l'unico optante del quartiere non riuscivi a spostare la barra perché non te la portava nessuno. c'è stato un utilizzo, scusate il dettaglio, simbolico, interessante per degli psicologi probabilmente, dello sterco. Quindi si usava a spalmare di sterco le porte delle case dei Dableiber, i volti dei Dableiber la domenica in piazza dopo la chiesa, eccetera, eccetera. C'è molto utilizzo di materiale di secondo piano per esprimere disprezzo. Traditore, tu sei fascista, ai non nazisti dicevano tu sei un fascista. E quindi la comunità germanica vive questo forse chiamare odio è tanto, ma quasi, e questa fortissima frattura che non si era avuta nei precedenti 20 anni dall'annessione allo Stato italiano. Poi con lo sviluppo della guerra, dopo l'8 settembre 1943, i nazisti prendono subito possesso dell'Alto Adige, e ancora, paradossalmente, i trattati peggio durante i 20 mesi di occupazione e di governo nazista dell'Alto Adige non furono gli italiani, non furono i fascisti, anche se il partito fascista era vietato, ma i fascisti clandestini erano tollerati anche perché erano utili a scoprire la resistenza. E ancora di nuovo ci sono molti episodi che dimostrano come fossero i Dableiber quelli che hanno passato più guai durante i 20 mesi di occupazione nazista. Se posso fare una piccola digressione, poi sì, certo, mi aiuti tu per direzionare l'argomento. A differenza di altri casi storici dove si cercano più i fatti e le memorie, queste cose qui, tipicamente, voi sapete il vecchio dibattito storico della differenza tra storia e memoria, fare storia sulla base delle memorie dei singoli è una cosa che si cerca di evitare. Su quel periodo invece molta gente, molti su Tirola hanno scritto delle memorie, sono fondamentali, perché non è tanto il fatto da appurare qui, ma bisogna capire l'aria che tirava. E se leggi tutte le memorie, sia degli optanti ma soprattutto dei Dableiber di quelle parti, capisci benissimo l'area che tirava. Alla fine il vero nemico era il Dableiber, non era più, poi l'americano quando arriva, ma quando arriva la guerra è già persa, non era più il fascista, non era più nessuno, era il Dableiber. E quando poi la guerra finisce, come fare a suturare queste ferite e a ricomporre l'unità, l'omogeneità, il senso d'appartenenza alla comunità germanica, è il vero capolavoro delle scope nei primi anni del dopoguerra, della Südtiroler Volkspartei, scusate. Bene, appunto arriviamo al dopoguerra, cioè con questa situazione arriviamo al 1945. Arriviamo cioè al punto più basso della considerazione nel mondo per il popolo tedesco. Il 30 aprile 1945 Hitler si spara un colpo di pistola nel suo bunker, l'8 maggio del 1945 viene fermata la resa incondizionata della Germania, la Germania è macerie, le presenze di tedeschi in tutti i territori occupati durante il nazismo viene naturalmente cancellata in maniera brutale, milioni di tedeschi vengono ricacciati e addirittura uccisi, eccetera. E in questo clima abbiamo una provincia di Bolzano che è nelle condizioni che dicevi tu adesso, occupata dagli americani per 6 mesi, mi pare tutto il 45, e con una incredibile situazione che si crea, cioè che questa componente tedesca sul tirolese, con tutto quello che ha passato e con tutto quello che abbiamo sentito, decide di fondare un partito esattamente l'8 maggio del 45, il giorno in cui il mondo tedesco è considerato la peggiore delle ipotesi in tutto il mondo, cioè non c'è nessuna stima, nessuna fiducia, e tantomeno i paesi che hanno combattuto, le potenze alleate che hanno liberato l'Europa dal fascismo e dal nazismo, tantomeno quelli ovviamente avevano qualsiasi considerazione per il mondo tedesco. Ciò nonostante, qui in questa piccola provincia assai speciale per tutte le cose che abbiamo sentito, si tenta di costituire un partito tedesco. Sì. E com'è possibile una cosa del genere? Allora, un fatto di questo periodo che è bene sottolineare è che dall'appunto il 9 settembre, subito dopo l'8 settembre, Reich prende possesso dell'Alto Adige, anche se non formalmente, ma in pratica qui la Repubblica di Salò non ha toccato palla, come si suol dire, E le resistenze in Alto Adige sono state due, ben separate e diverse l'una dall'altra. Nessuna delle due particolarmente forti, non è certo una resistenza come quella piemontese o come quella di altre regioni, soprattutto, anzi, quella tedesca forse militarmente leggermente più forte di quella italiana. Paradossalmente il fascismo aveva importato la resistenza italiana, perché è tutta fatta dagli operai della zona industriale che aveva creato meno di 10 anni prima. Le due resistenze, quella tedesca, fatta sola dai Dablag ovviamente, perché è fieramente antinazista, e quella italiana molto debole, si parlano poco e non si vogliono molto bene, soprattutto poi c'è un cambio dentro il CLN, non vi annoio, il comandante precedente ha un po' più di simpatia per i tedeschi, quello successivo per niente. E il motivo del contendere per cui non andavano d'accordo era il diritto all'autodeterminazione, che poi sarà un caposaldo della politica della Südtiroler Volkspartei. Ovviamente la resistenza italiana non poteva accettare di collaborare con qualcuno che voleva smembrare il sacro suolo d'Italia, perché i confini d'Italia ovviamente la resistenza li considerava sacri, e l'idea di combattere a fianco con uno che poi voleva riportare il confine a Salorno dal Brennero che era una cosa che la resistenza italiana rifiutava. E quindi anche operativamente si parlavano, soprattutto Hammond con Mario Longon, che era il primo dei due responsabili del CLN, qui avevano un rapporto personale, però facevano operazioni e logisticamente erano del tutto separati. Il nucleo di tedeschi che fanno la resistenza di Dableiber, che sono poi, ci arriviamo al nome di Erich Hammond, che è il vero padre dell'SVP e di pochi altri, perché molti della dirigenza dell'SVP dal 45 in poi, essendo Dableiber sotto il nazismo, ha fatto una brutta fine, erano tutti in galera, Folger è finito a Dachau, molta altra gente, vabbè, Meyer-Nusser ci ha rimesso le penne, insomma, i Dableiber hanno passato un vero guaio sotto il nazismo. E il 3 maggio 45 il CLN prende possesso di Bolzano, il 4 maggio entrano gli americani, l'8 maggio, con l'assenso dato poi il giorno dopo degli americani, praticamente quasi da solo, perché dato il momento non è che potevi fare grandi consultazioni democratiche, era una chiamata su cooptazione, Erich Hammond fonda l'SVP. L'8 maggio qui a Bolzano crea un partito che aveva alcuni capisaldi teorici fondamentali che gli americani accettarono. Quindi lui andò dagli americani, perché sotto occupazione deve avere il permesso dell'occupante per fondare un partito, se no ti mettono in galera. Gli spiega cosa vuol fare, gli spiega che l'autodeterminazione, quindi l'attentato alle frontiere patrie, secondo gli italiani, era il punto 1 del programma, e con la fiera opposizione del Comitato di Liberazione Nazionale, gli americani danno l'assenso a creare la Südtiroler Volkspartei. I caposaldi della Volkspartei sono fondamentalmente l'autodeterminazione, quindi l'idea di spingere affinché l'Alto Adige tornasse con l'Austria. Gli alleati già prima dei patti di pace del 1946 erano stati chiarissimi. L'Italia era acquisita al fronte occidentale. L'Austria, in previsione della guerra fredda, mica tanto, c'erano truppe sovietiche sul territorio austriaco. La piena sovranità del governo austriaco sul proprio territorio sarà nel 55. Fino al 55 si litiga e non si è perfettamente certi del fatto che sarebbe stato parte del mondo occidentale l'Austria. Ancora adesso l'Austria non è nella NATO, perché non può. È neutrale. Dal punto di vista del militare è una Svizzera, non può entrare nella NATO. E quindi le potenze erano già state chiarissime, il confine resta il Brennero. Le illusioni di riuscire ad avere un, come si chiamava, plebiscito, un referendum, sono morte quasi subito. Però dal punto di vista propagandistico, soprattutto anche la Chiesa ci teneva, è rimasta accesa per lungo tempo la fiammella dell'autodeterminazione ed era il punto 1 del programma. Poi ci si presentava come Sammelpartei, partito di raccolta. L'idea giusta strategicamente era: gli italiani naturalmente si divideranno per idee politiche, noi qui dobbiamo avere la maggioranza per pesare qualcosa, facciamo un partito unico, poi discutiamo dentro. Quindi creiamo un partito su base culturale o etnica, che ci ha mai insegnato che in effetti l'aspetto, l'aggettivo, ma l'aspetto culturale più, più significativo dell'aggettivo etnico. Quindi creiamo un partito in cui magari si litiga nei vari diari, tipo quelli di Raffaena, si vede benissimo che sono correnti, litigi, idee molto diverse all'interno delle scoppie, ma creiamo un partito che è un partito di raccolta, tutti i tedeschi votano lì, poi ce la vediamo al nostro interno, però dobbiamo avere la maggioranza nella nostra provincia. Poi un aspetto, diciamo, più culturale, antropologico, molto interessante, anche se la letteratura non se ne occupa a fondo, appare in modo un po' carsico, è una specie di invenzione dell'Alto Adige. Se adesso è più difficile, ma se un po' di tempo fa parlavate con i sudtirolesi che hanno vissuto il fascismo, il riferimento era Innsbruck. Quel poco di compattezza sudtirolese l'aveva creata il fascismo, ma non è che uno si sentiva sudtirolese, si sentiva tirolese. Non c'era questo senso invece adesso fortissimo di identità, di coesione, di comunanza di intenti. E questa creazione fin dal nome, Südtirol Volkspartei, che ha avuto anche addentellati commerciali molto interessanti, la creazione praticamente di un marchio virtuale politico o economico, è stato un colpo di genio dei primissimi anni della classe dirigente sudtirolese. Anche economicamente voi sapete che tutte le cose che si riescono a vendere non solo in Italia, ma in Europa come sudtirolesi, dallo Speck all'Oden, sono tirolesi, non sono sudtirolesi, trovate sia Speck che Loden che a Innsbruck. Eppure si è riuscito a creare politicamente e economicamente un marchio che poi ha avuto un grosso impatto sulla politica e sull'inizio dell'esportazione, sull'economia alla fine degli anni 40. E l'ultimo punto, il più controverso, che aveva a che fare con la Sammelpartei, era inevitabilmente di presentarsi ufficialmente come il partito dei Dubliner. Noi siamo stati specchiatamente antifascisti, siamo stati specchiatamente antinazisti, gli americani ci hanno permesso di far politica per questo, noi siamo il partito dei Dubliner, che detto a una popolazione che per l'87% era dall'altra parte, era un'operazione difficilissima da portare in porto, un vero equilibrismo politico, deve riuscire a mostrare la faccia dei Dubliner, fare una politica fieramente antifascista, antinazista, portando a bordo il tuo elettorato, ma il tuo elettorato aveva optato. E questo è il vero colpo di genio dei primi anni di Erich Hamann, magari poi parliamo delle figure di spicco di quel partito, che è riuscito a presentarsi come il partito dei Dubliner. Fino al 52 presidenti, vicepresidenti, segretari politici, deputati e senatori dell'SVP erano tutti Dubliner. E quindi la faccia che si faceva vedere dappertutto, con un'eccezione che si chiamava Cartinza, di cui non so se avevamo tempo di parlare, ma il libro ne parla a fondo, la faccia che facevano vedere a tutti, al CLN, ai partiti italiani, agli americani, finché sono stati qui, hanno lasciato la sovranità il 31-12-45, era quella dei Dubliner. Poi dietro, sia dal punto di vista elettorale che soprattutto dal punto di vista della classe dirigente, era impossibile non portare a bordo, fosse anche solo per questioni quantitative, quelli che avevano optato dovevano restare a bordo. C'era, non so se abbiamo tempo, ma vi annoio anche su questo, c'era una clamorosa mancanza di classe dirigente in Alto Adige. Si era spopolato tra morti, 8.000 morti in guerra, 50.000 che se n'erano andati, 70-20 mal contati, prigionieri di guerra, mio padre torna nel novembre del 46, la problema della scolarità. Per 20 anni si era studiato in una lingua che non era la propria, con una classe docente tipicamente ostile. I professori italiani, i docenti italiani vedevano di pessimo occhio gli studenti tedeschi. E quindi non sempre chi aveva voglia di studiare aveva continuato a studiare, non sempre era stato in grado di studiare bene. E poi per 20 anni nessun tedesco aveva avuto nessuna posizione significativa dal punto di vista burocratico, amministrativo, gestionale durante il fascismo. Di botto da una situazione in cui la scolarità si era fermata, gente ce n'era di meno, gente di esperienza gestionale ce n'era pochissima, si apre un mondo, perché hai bisogno nelle Genossenschaft, nelle cooperative, nei comuni, il sindaco, il vice sindaco, hai bisogno di migliaia di figure di classe dirigente, di cui c'era una fame terrificante, perché non ce n'era, non c'erano le condizioni per avere tutta sta gente. Voi capite che escludere gli optanti da questa operazione era proprio quantitativamente e politicamente del tutto impossibile, e Hamann ci riesce, il vero capolavoro. Carlo, tutto molto talmente interessante che potremmo continuare, però voglio interromperti perché nel libro tu naturalmente parli dei tuoi due nonni, sì. E questo è un elemento che penso interessa molto anche al pubblico, no? Sì. Tu hai due nonni molto importanti in tutte queste vicende, sì, no? Sì, sì. Due nonni che hanno fatto scelte diverse e che hanno, mi pare, contribuito a quella ricostruzione, sì, di cui stai parlando. Parlaci di questi, sì, due nonni. Allora, il mio nonno paterno, mio nonno e nonno anche di qualcun altro in questa sala, hanno fatto l'onore di venirmi a trovare due mie cugine, si chiama Otto von Gumberg, ed era figlio del famoso sindaco di Bressanone, quello della Kuranstalt, della Clitica, che forse qualcuno conosce, e per questioni che vedremo, pur non avendo avuto un ruolo di primissimo piano nella Andreas Hoferbund, che era, diciamo, l'espropria clandestina, la semplifico, durante la guerra, ma era un Dableiber ed era stato fieramente antifascista e antinazista. Diventa segretario della Südtiroler Volkspartei quasi subito, il primo segretario era Feinam, ma il primo dopo congresso, il segretario nominato nel 1945 in quella famosa riunione organizzata da Amon era Feinam, ma subito dopo al primo congresso diventa segretario, poi presidente, e soprattutto partecipa ai colloqui di pace di Parigi del 1946 con De Gasperi e alla stesura del patto De Gasperi-Gruber, che è quello che chiamano la Magna Carta della storia altoatesina, quella che ha dato nascita all'autonomia e al rispetto dei tedeschi. Perché una cosa che c'è da segnalare, il primo statuto dell'autonomia, poi ci arriviamo, ha lasciato i tedeschi un po' con l'amaro in bocca perché era regionale, non provinciale, però dice bene Alberto, è di grandissima lunga, non di gran lunga, non so neanche se si dica in italiano, ma di grandissima lunga la minoranza germanica fuori dalla Germania trattata meglio in Europa, quella del Südtirol. Se andiamo a vedere i tedeschi non in Germania come sono stati trattati tutte le altre parti d'Europa, hanno preso un sacco di mazzate, hanno passato dei guai terrificanti, qui poco, anzi direi nulla. E quindi comunque il patto di Gasperi-Gruber è stato un risultato straordinario. E mio nonno ha partecipato in un modo peculiare, che adesso vi racconto, era a Parigi ai patti di pace, era già stato a Versailles nel 19 come segretario di Sternbach, del barone von Sternbach. Due trattative, tutte e due le guerre, la seconda guerra mondiale. Uno era un giovinastro che faceva da segretario del rappresentante e dopo invece è stato più partecipe. Il modo peculiare in cui ha partecipato ai colloqui di pace, lui e Friedrich Volker erano due i rappresentanti, è il seguente. Gli italiani non li volevano far andare, gli italiani non volevano i sudtirolesi a Parigi. Dice, il Südtirol è un problema interno nostro, agli altri paesi non deve interessare niente. Figurati se io porto dietro un rappresentante di quelli che hanno appena perso la guerra, l'Italia sapete che cercava di spacciarsi come uno che in fondo hanno anche un po' vinta con la resistenza alla guerra. E quindi non solo tolse il visto per uscire dall'Italia sia a mio nonno che a Friedrich Volker, ma li pedinava, c'era i servizi segreti che pedinavano i due, perché si era saputo che erano, il partito avrebbe mandato loro due. E c'è nei diari di Volker un episodio rocambolesco molto interessante di loro che entrano in un bar, si cambiano, fanno vestire come erano vestiti loro altri che escono dal bar, le spie li seguono, loro montano in macchina a Bressanone, quindi a est, filano in Val Venosta, fanno a piedi il Similaun, e mio nonno aveva già la mia età di adesso, giovane ma non giovanissimo, e poi non era un uomo particolarmente sportivo, si fa a piedi il Similaun, di là lo aspettavano i rappresentanti della Repubblica Austriaca, Gruber, e organizzarono la partecipazione. La cosa divertente è che ai tavoli delle trattative, qui c'era De Gasperi con gli italiani, lì c'era Gruber con i sudtirolesi, lui faceva parte della delegazione austriaca, perché la delegazione italiana, i sudtirolesi, non gli passava neanche per l'anticamera del cervello di farli partecipare. E lui partecipò, e poi vedremo perché scesero lui, ha a che fare con i ruoli diversi che avevano da Bleiber e optanti durante quel periodo, partecipò ai patti di Parigi, portò a casa il De Gasperi Gruber, fu lui e Amon che avvallarono il primo statuto di autonomia nel 1948, quello che, ripeto, era di gran lunga il più avanzato su qualsiasi tedesco che c'era in Europa, ma non ha soddisfatto particolarmente la popolazione perché era regionale e non provinciale. Ed era uno un radicale, un rivendicativo, uno che si arrabbiava facile. Nel 1947, in un periodo in cui ancora si faceva molta attenzione all'ordine pubblico perché si cercava di non fare troppo i facinorosi, perché il momento era ancora caldo, occupò con qualche centinaio di facinorosi la prefettura di Bolzano perché non gli davano da leggere la bozza dello statuto di autonomia. Pensò di occupare la prefettura, rischiò la galera. E questo è uno dei nonni. L'altro, Paul Meyer, nonno materno, papà della mia mamma, era invece un dirigente bancario. Era direttore generale della Cassa di Risparmio di Bolzano già ancora negli ultimi anni di periodo asburgico, dal 1910, e traghettò la Cassa di Risparmio di Bolzano fino al 38, facendo delle operazioni significative. Quando lui diventò direttore generale aveva 16 dipendenti, se non ricordo male, alla fine ne aveva 196, perché accorpò tutte le altre casse di risparmio. Fu una legge fascista che obbligò ad accorpare le casse di risparmio, che fu applicata in modo occhiuto qui in Alto Adige, e lui gestì per conto praticamente della gestione fascista tutta questa vicenda qui, e restò, cosa tuttora non dico non particolarmente spiegabile ma bizzarra, al capo di quella che alla fine era di gran lunga l'istituto bancario più importante dell'Alto Adige, da germanofono, da tedesco. Lo lasciarono a capo della Cassa di Risparmio fino al 38. Il fatto che fosse stimato anche dalla popolazione italiana poi spiega anche quello che successe dopo. Un aspetto interessante nelle memorie, sono degli aneddoti molto divertenti, era che essendo bolzanino era bene, ragionevolmente bilingue. La politica altoatesina, anche la classe dirigente dell'SVP si divide molto anche regionalmente, tuttora i territori sono molto forti. E per esempio c'è un episodio in cui Karl Tintz gli dice: guarda, tu fai male a parlare male l'italiano, non va mica bene, noi dobbiamo far vedere che siamo diversi. Era considerato anche nel dopoguerra una forma di lotta politica il rifiutarsi di parlare molto bene l'italiano. E nel 1938, in un momento di tensione, c'era l'Anschluss, e voi sapete che durante l'Anschluss Mussolini non era proprio l'uomo più felice del mondo, e quindi pensarono di cambiare la dirigenza della Cassa di Risparmio, ci misero un italiano, scrivendo proprio nel verbale del Consiglio di Amministrazione, c'è scritto: in quanto Paul Meyer ha raggiunto l'età pensionabile e si è sempre rifiutato di prendere la testa del fascismo fascista, non lo cambiamo. Lui esce, poi diventa direttore della commissione di valutazione dei cespiti per il comune di Bolzano. Ovviamente tutti gli optanti dovevano ricevere dei soldi per quello che lasciavano qui, e la commissione che valutava il valore di quello che lasciavano qui era presieduta da mio nonno. C'è un episodio divertente: di questa commissione faceva parte il giovane Magnago, primo impiego, ragazzino. A un certo punto Magnago vuole andare in guerra a tutti i costi. Magnago era un optante, poi magari parliamo del partito dopo la seconda metà degli anni 50. Magnago era un optante e decise di andare in guerra. Mio nonno disse: no, non puoi, la commissione non può fare a meno di te. C'erano le cosiddette dichiarazioni di indispensabilità che dicono: non può andare in guerra scusate, perché è indispensabile per questo ente. Ma Magnago insistette, volle andare a tutti i costi, litigò con mio nonno che gli voleva a tutti i costi impedire ad andare in guerra. Lui ci andò e ci rimise una gamba, quindi no, bisogna vedere poi chi aveva ragione, credo. Il passo successivo della carriera di mio nonno fu il 9 settembre del 43, fu nominato supervisore del sistema bancario per l'intero Alpenvorland. Voi sapete che i nazisti accorparono l'Alto Adige alla provincia di Trento e alla provincia di Belluno, non fecero mai confluire questa zona che chiamavano zona di operazione del Preas, insomma, Alpenvorland, e a capo praticamente del sistema bancario misero lui. Questo vuol dire ovviamente, ecco, lui era un optante, e vuol dire ovviamente che si prestava a collaborare con i nazisti, ma soprattutto sul territorio della Kufoland la maggioranza della popolazione era italiana, quindi non potevi mettere uno paracadutato da Monaco di Baviera, perché c'erano da fare operazioni sanguinolente, ridurre i fidi, vincolare il prelievo dei contanti dal tuo conto, c'erano da fare robe difficili. Se la fai fare a qualcuno che la popolazione italiana, che era una maggioranza, sente come imposto, magari non funziona. E misero lui. Questo però gli diede l'aspetto dell'optante collaborante col partito nazista, che non gli rese la vita facile nel dopoguerra. Quello che succede è che nel dopoguerra i miei due nonni ricoprono figure che io ho identificato come paradigmatiche della classe dirigente dell'SVP, degli idealtipi, se vogliamo citare Weber. Cioè, uno, essendo legittimato in quanto evidentemente antifascista e antinazista, poteva permettersi di farsi vedere a Roma, fare le trattative, non ha fatto in tempo con gli americani, ma con i trentini, con la Democrazia Cristiana Trentina, con Berloffa, con a Roma, a Vienna, insomma, poteva permettersi di fare il radicale, il rivendicativo, quello che urlava, perché aveva un curriculum specchiato. Mio nonno materno l'esatto contrario, aveva un know-how forte nella situazione di mancanza di classe dirigente di cui abbiamo parlato, era uno che era stato ai vertici della più grande banca locale per 30 anni, e quindi diventa assessore alle finanze, prima del comune di Bolzano per un po' e poi della provincia di Bolzano. Quindi abbiamo queste due figure, una, essendo d'Oblaibr, posso essere sia arrabbiato, sia radicale, che metterci la faccia. Io posso andare a Roma, posso andare a Vienna, posso esserci e farmi vedere. L'altro invece, portatore di competenze tecniche e molto più misurato nei comportamenti, lo dicono anche le tradizioni familiari, molto più rilassato, molto più tendente alla mediazione, sta in secondo piano e assume un ruolo tecnico, fa l'assessore alle finanze. Cerca di tenere i conti di una provincia che nel dopoguerra aveva i suoi guai dal punto di vista economico. E queste due forme di dirigenza, le SVP, sono proprio due forme paradigmatiche, sono i due tipi di dirigenza che ci sono stati sotto la direzione del vero genio, come dico spesso, forse qui un po' meno, ma anche qui, ma nel resto d'Italia l'idea è: ah, le SVP è Magnago. In realtà il vero genio di tutta sta faccenda era stato Erichiamo, è riuscito a suturare, a cucire, a far giocare ruoli diversi alle categorie politiche diverse, a tenere rapporti con l'Austria, con Roma, con Trento, una serie di questioni diplomatiche molto difficili, in modo che io personalmente considero geniale, perché è riuscito veramente a far raggiungere prima il De Gasperi Gruber e poi l'autonomia del 48 a una popolazione che fosse stata in giro per l'Europa, era già tanto se non gli sparavano. Poi nella seconda metà degli anni 50 prende la guida del partito Magnago, che era un optante, e lì si potrà permettere di essere radicale, e arriverà la vera forma di autonomia, che è quella di cui godiamo tutti ancora adesso, perché ormai questa questione degli optanti, dei Dabla, ma anche la questione dei fascisti, dei nazisti antifascisti, queste categorie bizzarre, erano un po', dopo 10 anni erano un po' finite nel dimenticatoio, ha potuto tornare a essere un optante radicale, cosa che nel 47 sarebbe stata assolutamente impossibile. E queste sono le due storie dei due nonni che ho trovato interessanti, non tanto perché sono i miei nonni, ma perché appunto sono le due categorie che sotto la direzione di Ammon identificano esattamente il tipo di classe dirigente che aveva l'SVP in quel periodo. Bene, grazie. Dunque, guardo l'orologio e per dare poi spazio, sì, anche penso alle domande, perché immagino che ci siano interesse anche a fare delle domande a Carlo. E voglio solo fare una notazione per me finale, per la mia parte, e cioè in questi giorni, mandando l'invito, qualcuno mi ha detto: ma no, ancora di queste cose, con tutto quello che succede adesso ti metti ancora di parlare di queste cose. Allora Carlo, sapere e tematizzare e essere consapevoli di queste cose serve anche per l'oggi, serve anche per il domani, o è solo un'accademia? È uno dei motivi appunto che mi ha spinto al passo presuntuoso, se volete, dal me ne occupo e lo studio al ci scrivo un libro, è esattamente questo. Cioè, da un lato localmente le cose sono molto migliorate, io trovo che questo è sbagliato definirlo un paradiso, ma è sicuramente quanto di più diverso dall'inferno io riesco a immaginare, anche dal punto di vista gestionale e politico. Però la creazione, come giustamente hai detto tu in apertura, di una memoria condivisa e dell'idea che tutti sappiamo tutti dell'altro gruppo culturale è una cosa che personalmente, appunto, avendo il piede in due scarpe, è una cosa che sento come importante. Secondo me i tedeschi queste cose le sanno di più, la bibliografia in tedesco su questi argomenti è molto più ricca, sono storici italiani di valore qui. Però un tedesco che volesse sapere queste cose le impara facilmente, un italiano no, la bibliografia è più debole e quindi i tedeschi ne parlano malvolentieri ma hanno più strumenti, gli italiani magari sono più interessati e hanno un po' meno bibliografia, e quindi mi è sembrato utile riproporre questa vecchia solfa ancora 70 anni dopo. E poi soprattutto il periodo, perché alternative a fare come si è fatto qui non ce ne sono, e in giro per il mondo, posti in cui stanno succedendo cose paragonabili, ovviamente la storia non si ripete mai, ma andiamo sempre per assonanze, dal Kosovo al Donbass, posti dove la variabile culturale o etnica ha un ruolo fondamentale e genera violenza, ce ne sono. E alternative a fare come si è fatto qui, con l'intelligenza delle scope, ma anche con l'intelligenza di De Gasperi, di Moro, poi con il secondo statuto dell'autonomia, insomma, con il reciproco venirsi incontro, è solo il disastro, la cancellazione etnica, che non è solo sterminarli tutti, è spostarli. L'idea dei nazionalismi che stanno trionfando adesso e c'è un problema etico, la gente la sposta e la rimando nella sua nazione, che è quello che ha cercato di fare i nazionalisti sia tedeschi che italiani, piuttosto che faccio finta che non esistano. La fase prima del fascismo è: sono tedeschi? No, smettono di essere tedeschi, di asfalto, non li ammazzo ma li asfalto. E in un periodo di nazionalismi montanti in cui si pensa ancora allo Stato-Nazione come unica soluzione, quindi la gente o l'ammazzo o faccio finta che non esista o la sposto, invece il fatto di riuscire a parlarsi, di avere un'autonomia e un paio di accorgimenti secondo me utili, cioè una buona autonomia a qualche forma di tutela internazionale, quello che ha fatto l'Austria a fine anni 50-60 in Alto Adige, sarebbe utile che qualcuno lo facesse nel Kosovo, nel Donbass. Ci teniamo la ricetta che esatto, può venire buona, esatto, quindi esatto. È bene studiarla, averla. Il fatto che si rifiuti la violenza, la SVP come è stata ferrea. Le prime bombe non volevano ammazzare nessuno, però appena è saltata fuori la violenza vera, la SVP è stata granitica, come sono stati i partiti italiani negli anni 70. Quindi voglio di conoscere queste cose sia localmente, perché è una memoria condivisa, sia internazionalmente per capire dove andare, come si fa, secondo me è una roba ancora viva, questi argomenti qui sono ancora vivi. La ricetta sempre nel cassetto, non la vogliamo perdere. Se non ce l'abbiamo noi non ce l'ha nessun altro. Bene, io mi interromperei con un applauso a Carlo per quello che ha detto. Storico dei libri, ma anche storico delle vicende reali, delle memorie familiari. E aprirei la possibilità per il pubblico di intervenire, per fare domande, per esprimere punti di vista, eccetera. C'è qualcuno che vuole intervenire, che ha qualche osservazione? C'è una mano alzata. Qui abbiamo... Se parla forte forse si sente. Sì, penso che uscire una cosa. Brevissima. Dei 70.000 che sono usciti, più o meno quanti sono poi rientrati e che anni? Sì, allora, tra i rientri clandestini durante la guerra e i rientri poi formalizzati dopo il 45, nel patto De Gasperi-Gruber c'era proprio una clausola apposita sulla gestione condivisa e umanitaria degli optanti, il che voleva dire ridare la nazionalità agli optanti che non si erano mossi e dare la possibilità agli optanti che si erano mossi di tornare indietro e riacquisire la nazionalità. Più di 20.000 sono tornati, quindi al netto di più o meno 70.000 meno più di 20.000, comunque quasi 50.000 germanofoni sono spariti da questa terra. E si sa più o meno dove sono? Sì, sì, allora, dove siano adesso non lo so. Per esempio una famiglia, è una cosa che è stata raccontata, Zoderer era figlio di di optanti che si erano spostati, e ovviamente il Reich poi dal 42 ha avuto altre gatte da pelare, diciamo così, non l'ha più cercato, ma non aveva mai più trovato una zona in cui metterli tutti insieme. Sono finiti quasi tutti in Nord Tirol e Vorarlberg, quindi qui vicino, cosa che non ha trovato contentissimi i fascisti, che dicono: cosa fai, mi sposti il problema appena al di là del confine, questo con la bicicletta torna a casa. Basta. Avrebbero preferito che davvero li mandassero in Crimea, non se ne parlava più, sì. Però sì, circa 70 meno più di 20 fa quasi 50.000 al netto rimasti fuori, quasi tutti in Nord Tirol, quasi tutti, 70-80% in Nord Tirol e Vorarlberg, pochissimi in Germania, ai tempi era Germania, ma quella che adesso è Germania, pochissimi, quasi tutti in Austria. Ma così io dico, non conosco molto bene la realtà, io vengo da Friuli, sono 20 anni che sto a Bolzano, però leggevo che c'erano dei gruppi, tuttora ci sono dei gruppi ancora di lingua tedesca nei Sudeti, anche nella zona della Polonia, mi sembra, e addirittura in Russia. Ah, ma ci sono anche dei... ci saranno singole famiglie, singole case, ma queste non sono comunità tirolesi, queste sono comunità tedesche. Sono anche dei villaggi, io lo dico sempre, per giustificare la mia pronuncia quando parlo in tedesco, che per un tedesco bizzarro, io dico sempre parlo tedesco come Troisi parlava italiano, non so chi se lo ricorda Troisi, e dico sempre che questa è la propaggine più a sud del mondo che parla tedesco, quindi io sono terronissimo per un tedesco. Non è vero, perché sono dei villaggi in Brasile che parlano tedesco, però sono tutti immigrati dalla Germania, non sono, quelli in Brasile sono bavaresi nella fattispecie. Ecco, ci sono altre domande? Qualcos'altro da chiarire? Volevo chiedere che cosa ha portato il Dahlheimer a essere convinti a trovare la forza di rimanere qui, nonostante tutte le avversità, specialmente dei loro conterranei, e anche la forte propaganda nazista che convinceva pur sempre l'87% della popolazione. Allora, qui prima di tutto c'è l'amore, voi ci vivete, io ci vengo più spesso possibile, ma evidentemente l'amore per una terra straordinaria come questa qui. Però non basta. Il sapere, tipicamente anche l'antinazismo, molti Dahlberg erano convintamente, cioè era proprio una posizione politica di essere antinazisti, e poi ha avuto un grande peso, qui una parentesi che nel libro c'è, non ho toccato ma vale la pena accennare, della Chiesa. Allora, la Chiesa anch'essa ha avuto una frattura, una delle tante fratture della comunità germanica è quella all'interno della Chiesa, perché il Vescovo e la sua anima nera politica, che era un ampezzano, Pompanin, erano avevano simpatie naziste, e quindi loro optarono, e la posizione della curia vescovile di Bressanone era filonazista, forse un termine forte, ma per intenderci lo possiamo usare. La Chiesa di base, quella del famoso canonico Gamper, quella dei parroci, invece era convintamente da plebe, perché il nazismo era pagano, il nazismo era, non dico ateo, ma certo non strettamente cattolico, e quindi la comunità germanica nei paesini, visto che era vietata qualsiasi tipo di associazionismo, si compattava nelle parrocchie, e i parroci erano tutti Dahlheim, e hanno anche passato dei seri guai perché facevano propaganda per restare. E questa propaganda dei parroci, non tanto quantitativamente, cioè quanti fossero i parroci non lo so, ma non erano abbastanza per arrivare al 13%, ma rappresentavano l'unico punto di aggregazione fuori dai centri urbani, e quindi il posto dove i Dahlheim si sono convinti sono le parrocchie del canonico Gamper, che era convintamente Dahlheim. È stato molto importante questo. E poi una certa composizione di classe, oltre a quelli convinti dai parroci, i Dableib erano tipicamente i borghesi di città, i re delle Lauben e dei portici, erano gli ex militari asburgici, molti dei pochi nobili che c'erano qui, e quindi si creavano dei pacchettini coesi al loro interno che hanno fatto sì che si convincessero l'un con l'altro. Una cosa interessante è che quasi tutti optarono verso la fine. Chi non faceva niente, non scriveva niente, era considerato un Dableiber, cioè se non optavi fisicamente potevi restare. Però quelli che volevano dare un segnale politico e dire no, io resto convinto, consegnavano un modulo dicendo io resto, che non era obbligatorio, se non avessero consegnato niente restavano lo stesso, però dicevano al mondo io resto. E l'hanno fatto tutti dopo Natale, tranne, cioè, casualmente, cioè, tranne penso, Natale, sì, esatto, tranne, se non ricordo male, Gamper, Eric Hammond e mio nonno optarono lo stesso giorno, che era 16 dicembre. Però tutti aspettavano notizie, perché intanto era stata invasa la Polonia, quindi tutti si chiedevano cosa avrebbero fatto i parenti, ci sono state molte famiglie dilaniate, famiglia di Magnago, alcuni optarono, altri furono Dableib, anche perché Magnago era molto, molto più italiano di quanto non gli piacesse sembrare, il papà era di Rovereto, lui aveva poi studiato a Bologna, quindi le famiglie si dilaniarono, le decisioni vennero prese quasi tutte verso la fine. E come le dicevo, i motivi sono in parte sociali di classe, in parte politiche antinaziste e in parte grazie alla propaganda dei parroci, soprattutto nei paesi. C'è una mano alzata lì, ho visto. Sì, io. Buonasera, sono Mario. Pertanto complimenti, perché mi è piaciuto il dialogo, abbastanza chiaro e simpatico. E io mi trovo appena in parte coinvolto in questo discorso qua, anche se sono siciliano. Perché mio suocero si chiamava Maier, e lui era uno degli occupanti. Permette, mai ha scritto come, che sa che c'è? Ah, pure lui. E allora è andato voi, che in Germania sa anche lui, perché sperava in un futuro mi dovesse colare. Poi è andato in guerra, ci ha rimesso quattro zampe, questa è la sua vita e compagnia mia. Dopo è tornato nella speranza che la tua ce l'accettavano. Per morale, i fratelli, ho visto che lui è troppi anni, gli hanno comprato per 4 soldi per due di campagna, per loro che era uno tra i causi. Il secondo punto, quello che io ho visto che tanti anni sono qua, che i capitanti, sinceramente parlando, nonostante abbiano rinnegato o negato come vuole lei, sono stati accolti, ma bene fatto, cioè è un qualcosa che ti lascia riflettere, cioè tu ci abbandoni, ma non infatti fatto che l'ammiraglio, per carità, però tu ci abbandoni, ma al tuo rientro viene accolto bene, perché abbiamo di casa, adesso senza fare tanta critica, è andato di casa, vedi, questo è corretto. E il discorso finisce qua, se non andiamo sulla sì. E poi finisco. I miei figli sono andati tutti quanti a scuola di lingua tedesca. Questo libro qua, come si vede adesso, che è abbastanza patriottico, io sui miei figli ho notato che a scuola non c'è questo patriottismo di lingua tedesca. Cioè, io ho visto, siccome i miei figli si chiamano Vilardo, anche se sono nati, se sono di lingua tedesca, ho visto nelle scuole il conflitto che c'era tra gli italiani, tra tedeschi e tedeschi con cognome diverso. Mi spiego? Cioè, sarebbe più interessante una cultura educativa di questo tipo, mi riferisco agli insegnanti, che mettere contro perché tu sei italiano e tedesco, cioè non è qua, vabbè, però sarebbe bello, insomma. È quello, quello è il motivo per cui ho cercato di scrivere il libro, è proprio perché volemo se bene funziona meglio. Un paio di commenti sulla questione. Uno, quello che lei dice in linea generale è vero. Cioè gli optanti non hanno passato guai particolari nel dopoguerra, con un bel po' di eccezioni. Cioè bisogna dire che di gente che ha passato guai a seconda di dove erano, che ambito familiare o che ambito sociale erano, nelle cronache ce ne sono, quindi l'hanno passata diciamo liscia, però, ci metterei un però. E poi se volessimo far prendere riferimenti altissimi, però il fatto che siano stati di nuovo accettati nel tessuto sociale, al di là del fatto che erano una maggioranza, ma ricorda un po' mutatis mutandis l'operazione che ha fatto Mandela in Sudafrica. Cioè, in Sudafrica dice adesso i neri prendono il potere, chissà che gli fanno ai bianchi. Niente, semplicemente la pacificazione, il moderatismo e la trattativa come modo di gestire correttamente una popolazione. Come le ripeto, qualche optante che è passato in quella c'è stato, ci sono delle cronache, però l'atteggiamento di dire adesso rimbocchiamoci le maniche e vediamo di andare d'accordo è stato alla fine quello che ha evitato il redderazione, ma anche interno alla comunità germanica qui. Bene, se non ci sono altre domande io penso che ci possiamo fermare qui. C'è qualche altra osservazione? Se no, di nuovo ringraziamo Carlo von Guggenberg. In Italia farai un po' di fatica con questo cognome a fare. Io, 60 anni ne ho passati almeno 4 a fare spelling, non c'è. non c'è detto che il cuore significa il signore, giusto? È un moto dall'uomo, è un moto dall'uomo, da. Ma il suo cognome è stato tradotto in italiano? No. Come le dicevo, l'italianizzazione dei cognomi non è mai stata forzata, cercavano di convincerli. Per quello che Moncucco suonava male, De Montecuculi suonava meglio, ha cercato di convincere mio nonno, ma non è andato. Perché tanti hanno cambiato, sì. Ne hanno raccontato. Sì, ce ne sono stati. I nomi tutti. I nomi olandesi potevano essere italiani, sì. Non potevano essere tedeschi. C'è una mano alzata in fondo, sì, sì. Andiamo verso la conclusione. Non so se sono fuori tempo massimo. No, bene, la domanda ci sta. Lei prima ha nominato Douglas e la Guinea. Sì. Lei intravede studiato lei del nostro Atlante, una qualche spiraglio in quelle terre là ci possa essere. Lei mi sopravvaluta, sinceramente non so proprio cosa dire. Io quello che so dire è che se mai si arrivasse a un cessate il fuoco delle negoziazioni e degli accordi, questo modello qui va preso in considerazione, è l'unico modo per cavarsela. Se ci si arriverà mai, proprio non so. C'è qui il redattore dell'introduzione al mio libro che è sicuramente più adatto a me per dire se ci arriviamo. Qual è il modello? Cioè, bisogna vedere se ci si arriva. È apposta. La situazione al momento non sembra di quelle più favorevoli. Quindi, se ci si arriva non lo so. Quando ci si arriva sarà bene fare così. Sarà bene fare così. Alla fine si cade in una cosa del genere. Sì. Cioè, bilanciamento, minoranza, maggioranza, controllo internazionale, rifiuto dell'autonomia. È l'unica ricetta. Bene, se non vedo altre mani alzate, quindi ci possiamo salutare. Veramente un grazie per questo pubblico, grazie molto attento e numeroso. Grazie a Carlo, grazie a casa editrice Praxis, grazie alla biblioteca. Credo che ci sia un piccolo untrunk, come si dice, qualcosa da bere in fondo, se ce la facciamo. E se no possiamo fermarci a chiacchierare un po'. E io sono qua. Ci sono i libri e chi li vuole comprare ovviamente.